Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sponda la parte di Maggio che poi ribala! 1-0 Juve al primo fondo, la sblocca lui. Ribala, controllo e tiro violento, rete, rete, che gol, capolavoro di Ribala! Paolo ha fatto dei passi da gigante da quando è arrivato l'anno scorso, ha cambiato posizione in campo, però come caratteristiche sono tre giocatori diversi, perché Messi, a parte che è il numero uno al mondo, lo è da tanti anni e ancora oggi lo è, quindi, però caratteristiche diverse da Dybala. Dybala è un giocatore giovane che sta crescendo molto e credo che con Neymar potranno essere sicuramente i due più bravi nel prossimo futuro. Controllo Neymar, uno contro uno, lo scarico Suarez e Messi ancora, rete, sono cinque. Passo e tiro, Messi, sempre Messi. È beato il Barcellona, è beato lui che ha tutte queste doti, però insomma anche noi abbiamo delle armi importanti, speriamo di riuscire a innescarle. Giorno dei giorni, eccolo qui. Intanto vi rivelo una cosa, oggi è successo, è capitato qui a Radio 24 l'incubo di ogni persona che questa sera si metterà davanti alla televisione a vedere su canale 5 Italia 1, Pardo? Canale 5. Su canale 5, l'incubo di ogni telespettatore di questa sera di canale 5 che si metterà davanti alla TV, il blackout. Infatti andiamo in onda grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, e Lavezzari, Edoardo Lavezzari, che pedalano sulle bobine. Grandi! Gianmarco Ferronato in regia. Abbiamo scelto uno dei temi, siamo forse banali, Dybala contro Messi, però io e Pardo non riusciamo ad essere tifosi, ma siamo feticisti di grandi giocatori, e quindi la mettiamo così, no? Sì, insomma stasera hai detto bene, hai detto benissimo, al giorno dei giorni, è la partita che ci dirà la dimensione internazionale della Juve, ovviamente assieme anche alla gara di ritorno, perché il Barcellona è fortissimo, perché il Barcellona ha una qualità offensiva enorme, forse anche qualche difetto, ma è meglio non illudersi, quindi su quelle partite che non hai proprio una bussola per capire, che è bellissimo vivere, non sapere, certo. Esatto. A meno che tu non sia tifoso come Massimo Zampini, che invece sta camminando. Dove sei? A Torino? Sì, sono qua a Torino, contornato da tifosi anche del Barça, in una bella atmosfera. È bello esserci, no, ma come dite voi, anche per noi è bello esserci, è divertente. Ma per voi è bello vincere. No, non cominciamo a esserci, è l'unica cosa che conta. No, raccontiamoci fregnacce a Zampini. L'unica cosa che conta è passare il turno e eliminare il Barcellona. Noi juventini non siamo legati a questo concetto della vittoria banale. Non dire stronzate. Superato. Conta il possesso palla. No, ovviamente ci teniamo moltissimo, tantissimo. Saremo molto delusi dal fare una figura non all'altezza, però sinceramente sappiamo che il Barcellona è favorito, lo è per i bookmakers, lo è un po' per tutti quelli che lo sanno. Poi non vuol dire che quest'anno Quando la finisci con la scaramanzia, lo sapete che è vero, ma io non condivido più di tanto. La percentuale di Pardo è diversa dalla mia, 60-40. Io dico 45-55, anzi, forse le do alla pari, respirando l'aria. Secondo me è un vantaggio di oggi, che se parte lo hanno di esperienza. Noi abbiamo confrontato spesso in questi giorni le finaliste di due anni fa, la Juve è completamente un'altra squadra. Poi è all'altezza probabilmente, qua onore alla società, diciamolo anche poi, perché quando si dice dei 90 milioni per Higuaín ricordiamo i 100 presi per Pogba, i 30 per Piano, ci sono i 30 per Morata. Ed è una squadra che è rimasta all'altezza, tutti noi siamo convinti che possa giocarsela con lo stesso Barça di due anni fa. Quindi in questo senso è bello potersi giocare, non dico alla pari, ma comunque con dignità. E anche il Barça so che teme la Juventus e avrebbe preferito affrontare qualcun altro. Però è vero che quei tre, io so che se stasera noi facciamo la partita perfetta sbagliando una palla o due, quelle due palle come la nostra volta, il fatto è che il Barça non è più quello di due anni fa, Pierluigi, e la Juventus nemmeno. Cioè, sì, Barça... Juventus è molto migliorata davanti ed è molto peggiorata in mezzo al campo, non me ne vogliono i centrocampisti attuali, Chedira ad esempio che non è giocatore, però sicuramente insomma Pirlo per raggiunto limite di età, Pogba e Vidal insomma erano tre giocatori di un certo livello, davanti però l'investimento è stato fatto. Dybala è sbocciato in maniera clamorosa, Higuaín comunque i suoi gol li fa e ne fa tanti, insomma io penso che sia soprattutto la sfida fra la migliore difesa e il miglior attacco del mondo, la miglior difesa del mondo contro il miglior attacco del mondo, questo può essere il tema della partita. Massimo, sì, io penso che analizzando le due squadre, soprattutto oggi dove non c'è Busquets, io credo che il Barcellona abbia dei top appunto davanti soprattutto, ma io aggiungo Iniesta in particolare, che sono inarrivabili anche per i nostri fortissimi giocatori. A oggi per me Iniesta più i tre davanti sono inarrivabili. Se guardo la squadra nel complesso mi accorgo che probabilmente nell'insieme è più compatta e equilibrata la Juve, non ha un reparto come dire debole, per quanto sì, Mascherano, Iniesta e Rakitic possano magari prevalere su Khedira, Pjanic, però ricordiamo che Khedira e Pjanic vengono aiutati da Mandzukic e Cuadrado, dagli esterni difensivi che salgono, quindi nell'insieme io credo che la Juve sia probabilmente più squadra, ma quei tre davanti più Iniesta, io aggiungo, e Rakitic eccetera eccetera, come individualità rimangono io credo un po' superiori. Sì, no? La mia sensazione è che sia comunque un Barça a fine ciclo, al di là del fatto che se ne andrà Guardiola, Iniesta anche lui sta raggiungendo Pirlo tra coloro che sono sulla via delle Americhe magari per raggiunti limiti di età. Mi sembra un Barcellona, mancherà Busquets, mi sembra un Barcellona che sia al di là di quello stranissimo evento che è stato il confronto col Paris Saint-Germain, mi sembra un Barcellona che sia forse all'ultimo ballo o al penultimo, Pardo. Ma io guarda, ho avuto veramente la fortuna, mai come stavolta devo usare questa parola, di averle raccontate tutte e due quelle partite col Paris Saint-Germain e francamente tutte e due mi hanno fatto effetto, mi hanno colpito e chiaramente mi hanno colpito una nella maniera opposta rispetto all'altra. Io Barcellona l'ho visto veramente a fine corsa, fra l'altro il rio della sorte è l'eroe della partita di ritorno, cioè Sergio Roberto aveva fatto un'andata veramente quasi vergognosa di difficoltà enorme, ho visto Rabiot fare il fenomeno all'andata e sparire nel match di ritorno, insomma i pensieri sono tanti e sono abbastanza confusi sinceramente, perché questa squadra è tutto il contrario di tutto in questo momento e da un lato mi verrebbe anche da dire che avendo negli occhi la partita andata del Paris Saint Germain, la Juve potrebbe anche cedere alla tentazione di aggredire, di pressare alto, perché magari ci sono i presupposti per fare non un 4-0 ma insomma una bella vittoria squillante. Di contro viene anche a pensare che è straordinariamente importante non concedere gol, tenere la partita quantomeno aperta fino al match di ritorno. Insomma, sono due filosofie, sono sinceramente curioso di vedere come se la giocherà Allegri, perché questa è la prima vera grande domanda, secondo me, nell'impostare la partita, se osare un po' di più oppure scegliere un atteggiamento più prudente. Beh, mi pare che insomma la formazione, che sarà quella ormai abituale dalla partita con la Lazio in poi, stia a documentare che Allegri non tenterà l'arroccamento, cioè non giocherà come fece Mourinho al Camp Nou in maniera magistrale. Perché il modo migliore storicamente negli ultimi anni per affrontare il Barcellona è quello di regalargli il pallone e di star lì a farglielo trastullare, facendoseli rimbalzare un po' addosso. Allora Massimo Zampini, ti rendi conto che questa sera sarà la notte dei Guelfi contro i Ghibellini? Io ho già ricevuto un miliardo di messaggi del tipo questa sera il biscione si trasforma, eccolo qui. Questa sera il logo del biscione si trasformerà in gufone, scrive Piero da Milano. Sì, sì, ma questo va benissimo. Poi noi ci giochiamo, ci scherziamo. Io dico spesso, ridendo anche su Twitter, che oggi è una giornata tesissima per mezza Italia, ma che anche noi juventini la guarderemo tutto sommato, perché nell'insieme sono sembrano più tesi loro. Però al di là di questo, io devo dire che io sono ben felice di vivere questi momenti, perché non mi piaceva gufare l'Inter, gufare il Milan, come il gufo in modo simpatico e tranquillo quando non tocca a noi. Preferisco nettamente essere gufato e che loro festeggino se passerà il Barça. Cioè, diciamo, non scambierei mai la mia posizione con la loro anche dopo un'eventuale eliminazione con il Barcellona, e fanno benissimo a gufare, non c'è niente di male. Allora, se posso permettermi, a proposito di quello, di come abbiamo cominciato il collegamento con Zampini, sì, veramente esserci è l'unica cosa che conta, è una provocazione. Però io credo che poi dal punto di vista chiaramente degli atleti che vogliono portare a casa, no, ma anche dal loro punto di vista, esserci è molto importante. Assolutamente, io non, no, ma è una di quelle, Pier, è una di quelle partite che dirti, ogni giocatore vorrebbe giocare, no? Così. A Roma ci si interroga su se piuttosto che perdere 7-1 con Manchester United non sarebbe stato meglio uscire prima. No, a Torino no, si interrogano sul fatto che tutte queste finali di Champions perse forse era meglio non sono d'accordo. Anche se poi è chiaro che perdere, soprattutto se perdi sul più bello, se perdi quando c'è più adrenalina, ti porta, è chiaro che ti porta a rosicare. Chi se ne frega, ecco. Per chiudere con Massimo Zampini, i tuoi riti scaramantici. Voglio sapere anche quelli di tutti i nostri ascoltatori, 800240024, compresi quelli che non si potrebbero raccontare visto la fascia protetta, però sono estremamente curioso. Guarda, il mio è quello del tweet che vi ho raccontato, cioè dire che mezza Italia vive nell'ansia, però anche noi juventini la guarderemo. Lo scrivo costantemente da qualche Champions, devo dire, non è che le cose vadano benissimo. Ma sei giocato una finale? L'anno in cui l'ho fatto costantemente, appunto, siamo poi arrivati in finale quando non era minimamente aspettato, quindi il mio rito è quello. E in finale l'hai fatto? Non è che ti sei distratto? L'ho fatto anche in finale. Poi avevamo pranzato insieme prima della finale, o sbaglio? Ricordo bene, in quel di Berlino. Magari è stato quello. Paolo ti ha fatto mangiare pesante. Esatto, cioè, io lo conosco bene. Ti ha fatto arrivare in ritardo allo stadio. Eri un po' nervoso. Insomma, è stata tutta colpa di Pardo, come al solito. Secondo noi c'è una sua influenza. Poi, ovviamente, non posso dimostrarla. Grazie, Max. Grazie a voi. Ciao. Traffico 800240024, numero verde. Convocati. Tutti convocati. Mi aspetto una Juve solida, una Juve con personalità, una Juve che giochi le due sfide in maniera adatta e idonea all'evento, cioè che non vuol dire vincere facilmente, ma vuol dire farsi rispettare. Cioè, la tensione non deve essere eccessiva, perché? Perché la squadra deve essere consapevole dei propri mezzi, ha fatto dei grandi passi in avanti, ma oltre che sul piano tecnico, i passi in avanti vanno fatti sul piano psicologico, perché queste sono partite che giochi anche a livello psicologico. Devi essere sereno, devi affrontare con grande rispetto il Barcellona, ma con la convinzione che possiamo passare, altrimenti non andiamo avanti. E questa è la vigilia del Totem Buffon e di Massimiliano Allegri. Intanto, Pierluigi, gli ascoltatori via WhatsApp si stanno scatenando con le scaramanzie. Rispondo a un ascoltatore: sarà Pardo a commentare la partita? No, sarà Sandro Piccinini. Pardo invece commenterà domani un'altra grandissima gara, peraltro. Sì, Bayern Real e poi al ritorno invece ci invertiamo. Io faccio Barça-Juve. Quindi... Barça-Juve. No, devo dirti sì, che poi ne parliamo domani direttamente da Monaco di Baviera. Insomma, sono due quarti di finale che in realtà sono due semifinali, con tutto Bravo. Rispetto per le altre, perché poi per esempio stasera c'è un Borussia Monaco che io mi gioco il Monaco underdog di questa, non lo so, però lo so, io mi gioco l'over, cioè questa Borussia Dortmund Monaco è una partita spettacolo. Atletico Madrid Leicester invece penso sia una partita più scorbutica, dove Atletico Madrid è il favorito, ma insomma c'è veramente una parte alta e una parte bassa del tabellone, non c'è dubbio. Pierluigi e sarà importante anche ovviamente poi il sorteggio del 21 aprile, perché se dovessero incontrarsi le vincitrici della semifinale della Juve e quella della semifinale del Bayern, allora parleremo di finale anticipata. Intanto, a proposito sempre di scaramanzie, c'è un ascoltatore che ti ascolta ogni giorno dalla Corea e allora seguirà la partita giocando a Subbuteo, Juve-Barcellona, e ascoltando tutti i convocati. Beh, fantastico. Ce n'è un altro che scrive: braccialetto, hashtag fino alla fine, mani rigorosamente sui marroni per 90 minuti. Davide da Mantova. Dario dal Camion invece infilerà, infilerà la maglia di Barzagli. Tu sapevi, Pardo, che Maurizio Grosetti ha un master in tecnologia applicata ai computer in conferenza stampa? Non lo sapevo. Grosetti mi aspetto tutto, quindi ciao Cross. Capace di grandi sorprese. Scusa se... Buongiorno, spiegamela, dai. No, scusa, scusami se scherzo sulle tue disavventure di ieri che ho saputo, attraverso voci di corridoio. Facciamo questo mestiere. Facciamo questo mestiere e siamo dei ficcanaso di professione, no? Non lo so, io non mi occupo di notizie dal 1994, ma stimo chi invece riesce a raccoglierle, soprattutto quando mi riguardano. Sì, va bene. Sì. Ho raccontato ieri a un valido ragazzo della redazione di Radio 24 e ieri durante la conferenza stampa mi è morto il portatile perdendo un pezzo che avevo scritto e altre cose, quindi nativo digitale manco per niente, e le mani io dove non le metto dove le mette il tifoso, ma non per il risultato, ma perché stasera la macchina di scorta non mi tradisca, se permettete. Ecco. Quale dei due pezzi avevi perso? Quello principale su Allegri e il sogno possibile, oppure quell'altro meraviglioso sulla carica delle 100 passionarie catalane a Torino? Avevo perso quello, però se tu dici che ti è piaciuto, allora è venuto meglio il secondo. Esatto, a me è piaciuto molto. Poi è una grande idea. Sono le catalane sposate con è una bella storia. Meravigliosa storia. Speriamo che ne scriva una ancora più bella questa sera la Juventus. Le squadre che hanno messo più in difficoltà il Barcellona, Maurizio, sono quelle che gli hanno lasciato la palla, gli hanno fatto masturbare il pallone mettendosi lì e facendoselo rimbalzare addosso. La Juventus questa sera cosa farà secondo te? Io credo che provi a vincerla subito in aggressione, anche perché sa che il Barcellona non è più quella cosa, quella specie di piovra seduta in mezzo al campo che ti nasconde la palla acchiappandola con uno dei suoi mille tentacoli. Quei tentacoli non ce ne sono più tanti, ce ne sono alcuni, e penso che la Juve provi ad aggredire con attenzione. Non mi immagino una partita di attesa, a meno che il Barça non riesca di nuovo a catturare il pallone, allora lì si aspetta. È chiaro che è una partita, lo si dice sempre in questi casi, che dura 180 e forse 190 e forse anche di più, dipende insomma, no? Se si dovesse andare alla latteria dei calci di rigore o alla roulotte dei rigori, preferisco la latteria dei calci di rigore. Sì, tieni conto che però la mia memoria ha ancora nitida una scena in cui c'è un giocatore che si chiama Birindelli che galoppa sulla fascia e poi crossa, e c'è un altro giocatore che si chiama Zalajeta che fa gol, e siamo al Camp Nou e la Juve elimina un Barcellona che non era questo. Sai com'è nella vita. Pensa che stamattina sono arrivato in redazione, prima cosa che ho detto ai ragazzi è: cerchiamo Zalajeta, come se fosse una roba da nulla. Lo trovi al Paradise dove bivaccava quando era alla Juve mangiando gelati e noccioline sotto la redazione di Repubblica. Molto bene. Magari ancora lì. Proviamo a fare uno squillo. La legge di Coppa dice non prendere gol in casa. Buffon risponde: vabbè, con questi qui è inutile che applichiamo la legge di Coppa, il gol ce lo fanno, Pierluigi. Sì, ti ho detto, sono molto indeciso perché da un lato la partita col Paris Saint-Germain ci dice che se la Juve deve conquistarsi la qualificazione, deve conquistarsela soprattutto in casa. La notte è questa. Sono sicuro che se la Juve si fosse trovata nella situazione del Paris Saint-Germain al ritorno, per l'esperienza che ha, per la solidità che ha, non sarebbe uscita. Poi probabilmente la Juve non è in grado di fare un 4-0 in casa al Barcellona. No, però possiamo banalizzare dicendo, come abbiamo fatto prima, che sarà il miglior attacco del mondo contro la miglior difesa del mondo attualmente? Sì. O comunque insomma siamo in quella categoria lì, è una sfida di stili, certamente non la polemica, ma insomma la dialettica che esiste fra Sarri e Allegri sul concetto di spettacolo, di efficacia, di circo, di calcio, quello che abbiamo sentito in queste ore in qualche modo ci riporta a questo tipo di situazione. Cioè la Juve è una squadra che dà dei concetti, Allegri dà dei concetti di gioco, sì. non insegue in maniera continua e costante quella perfezione, quella ricerca sempre del gioco, della verticalità. Sì, alterna, diciamo che non usi i droni, dai. Alterna momenti. Alterna momenti. E ti dico, qui non è un po' che non dico più bene a mamma o papà, cioè sono filosofie di vita e di calcio. Quindi Allegri è un allenatore che punta molto sull'equilibrio e ci riesce. Mm-hmm. Barcellona meno. E poi la variabile, come diceva Zampini prima, sono quei tre lì davanti, certo, davanti. Poi Allegri ha un'altra grande qualità, che hai ragione tu, non è un dogmatico, non è un integralista, un talebano, ma è uno che dà dei concetti di gioco. Poi mi è capitato di parlare l'altro giorno in altra sede davanti ai teleschermi con Alberto Malesani, e dice: Allegri è un allenatore estremamente difficile da affrontare perché è bravissimo a leggere le partite, a cambiarti la frittata in 4-4-8, e questo è un altro vantaggio, un'altro grande caratteristica centrali di Allegri. Centrali del Barcellona non velocissimi, sono ancora una chiave. Vedo quel tipo di situazione lì, vedo tanti lanci in verticale a cercare Higuaín, molto dipenderà ovviamente dalla fantasia di Dybala. Ci sono troppe variabili, ragazzi, ci sono troppe qualità da una parte e dall'altra perché si possa fare una minima previsione. L'unica differenza che mi fa dire 60% Barcellona è nell'abitudine, è nel fatto che il Barcellona è una squadra più compiuta, più abituata della Juve a giocare queste partite, anche se pure la Juve è abituata, anche se la Juve ha grandi campioni, ma se ti devo dire una differenza è questa. Sì. Però siamo dell'ordine delle mini differenze. Sì, siamo nell'ordine dei micron. Intanto mi sto ultima raffica di WhatsApp prima di passare a un'ultima considerazione con Crosetti. Ogni volta che gioca la Juve vado a fare il gas con la macchina. Daniele da Padova: io metterò la foto di mamma Ebe sopra la televisione. Patrizio da Pistoia. Oppure c'è chi dice che Dybala è un buon giocatore, ma Lorenzo Insigne lo surclassa sotto tutti i punti di vista. Credo che l'ascoltatore sia vagamente napoletano, credo così. A proposito di ex napoletani, Maurizio Crosetti, aspettiamo da Higuaín lo squillo che conta, cioè quello in Champions League. Finora la Juventus ha preso 2 gol in Champions League, Higuaín non è stato mai brillante, mai decisivo fin qui in questa competizione, è lecito attendersi in questo doppio confronto il timbro, il marchio di Higuaín. Beh sì, l'hanno preso essenzialmente per quello. Allargo il discorso anche di Dybala: nelle sfide a eliminazione diretta finora in Champions non ha timbrato molto. E va bene così, nel senso che evidentemente l'avvenire che hanno di fronte questi due grandissimi attaccanti è ancora da scrivere, e forse può fare la differenza tra la finale del 2015 e questa partita. Allora la Juventus era superiore secondo me a centrocampo, ma era inferiore in attacco, anche se per carità Morata e Tevez buttali via. Oggi è qualcosa di più offensivo e probabilmente anche di più tecnico, ha un peso europeo anche nella fisionomia, nell'idea di gioco, nella consapevolezza di sé, e comunque l'anno scorso, pur essendo un po' indietro rispetto a questa Juve, per un pelo non elimina il Bayern all'Allianz Arena. Quindi ecco, intanto sentirete, sono arrivati gli aerei, i cacciabombardieri, non so. Sono arrivati i cacciabombardieri. Cosa succede fuori dalla finestra, ma... Il Torino in realtà è bellissimo oggi perché è piena di tifosi, poi alla fine so che è sempre una considerazione retorica, però quanto è bello il calcio nei giorni di Coppa, quando si spostano, le persone vanno nelle pizzerie, nei Deor, nei musei, ma la retorica, cantano la attorno retorica, alle fontane, e a me piace tanto. Che la retorica, cioè, basta che non le spacchino come a Roma, poi che vadano nelle fontane. La cosa più retorica della vita è l'amore, ed è anche una delle cose delle quali non possiamo fare a meno, quindi sono d'accordo sul fatto che sia retorico, ma è così, si vive per fare trasferte come quella che faranno i tifosi della Juve a Barcellona, che stanno facendo in queste ore i tifosi del Barcellona a Torino, e si vive per giocare partite come queste, c'è chi le vive, c'è chi sogna di viverle e lavora per riuscire ad arrivare a quel livello lì, insomma. e c'è poi chi le vince e chi le perde. Sono molto più prosaico, molto più carnale, e questa doppia sfida la vorrei vincere, cioè vorrei che la Juventus la vincesse. Conta solo la felicità, e la felicità è solo parzialmente legata alla... No, è vero, sono parzialmente legate alle vittorie, lo so che sei un romantico, perdi sempre alla lunga tirode perché dici qualche volta questo è evidente. No, vi saluto Maurizio Crosetti, che Pierluigi Pardo resta 800240024. Aspettiamo anche i tifosi. No, ti saluto con questo messaggio. Sai che ti ho letto prima che c'è chi mette la foto di mamma Ebe sulla televisione. Sì, e chi se la ricordava più mamma Ebe? C'è invece un ascoltatore il cui logo è Granata, che scrive: io metto sopra la TV la foto dell'arbitro Rocchi. Ciao Maurizio. No, cattivaccio. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Tutti convocati. Devo fare un grosso in bocca al lupo a Giuseppe Rossi, che credo che veramente è un ragazzo sfortunato che la rea bendata le ha girato un po' troppe volte le spalle. E gli faccio un grosso in bocca al lupo perché spero che ritorni a giocare, perché lo merita ampiamente per gli infortuni. Oggi, quest'anno, credo che sia il quarto che ha avuto al ginocchio, quindi volevo fare solamente questo grosso in bocca al lupo. Grazie, buona serata. Così ha chiuso la sua conferenza stampa per Barcellona Massimiliano Allegri. Se per dessero un Oscar per la sfiga, o un pallone d'oro per la sfiga, Giuseppe Rossi ne avrebbe in bacheca 5. Federico Pastorello, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao Federico Pastorello. Effettivamente ne avrebbe tanti, è vero. Ne avrebbe tanti. Siamo al quinto infortunio grave al ginocchio, giusto? Sì, l'unica nota positiva è che alla fine è il primo al ginocchio sinistro, quindi diciamo che nel cercare sempre un qualcosa di positivo, anche nelle vicende negative, diciamo che questo dovrebbe essere meno problematico della seconda, terza e quarta operazione che ha avuto invece al ginocchio destro. Sì, Giuseppe Rossi, che volendo essere un po' cinici, è una grande occasione perduta, un grande rimpianto anche per la nazionale, per il calcio italiano, perché avrebbe potuto essere comunque uno dei nostri attaccanti di punta, no Pardo? Un giocatore dal talento grande quanto la sfiga, sì. Un giocatore che segnava sempre negli esordi, sinonimo di precocità e di sfrontatezza. Io lo dicevo ieri, quindi davanti a Pastorello non posso che ripetere, ho finito gli aggettivi, ho finito le parole, non so che dire a sto ragazzo, al di là dell'in bocca al lupo in privato e in pubblico, perché veramente... Senti, ma adesso il grosso dubbio, è inutile che ci giriamo intorno, Federico Pastorello, suo procuratore, suo amico, suo confidente, ha 30 anni... Mica molla, ha voglia di fare quest'ultima saletta. Assolutamente. Chi lo conosce bene sa che è un ragazzo di una determinazione assoluta. Quindi, diciamo, ha avuto un momento un po' di scoraggiamento al momento e la sera stessa, ma l'indomani mattina eravamo già lì a organizzare il discorso di dove andare a fare l'operazione, di la rieducazione. Cioè, si è già messo dentro in assoluto al recuperare da questa ennesima caduta, ma lo farà con grande determinazione, ne sono convinto. Senti Federico, ci organizzi un appuntamento telefonico? Sì, io volentieri glielo proporrò. Anche con te. Mi racconti com'è, non la posso fare banale, com'è l'umore, nel senso che immagino no, che... No, guarda, ti dico la sincerità, abbiamo anche scherzato ieri dicendo dai così con la scusa di venire a New York a trovarti. Quindi diciamo che abbiamo cercato anche un po' di tirarlo su di morale con Andrea, con mio fratello, quindi... Diciamo che poi ha la fortuna di avere una famiglia vicina straordinaria, una fidanzata Jenna che lo aiuta tantissimo, quindi sarà sicuramente un'ennesima rincorsa, ma ce la farà anche questa volta. Sì, e anche due palle così, proprio per questo motivo. Sì, bravissimo. Senti, esatto, senti Federico, ti chiedo invece una lettura rapida di Juventus-Barcellona, Barcellona-Juventus, doppio confronto, e ti chiedo se sei d'accordo con me, visto che il calcio francese, il professor Pastorello, tra l'altro residente nel Principato, che in questo momento sogna il titolo di Francia, se sei d'accordo con me nel... considerare il Monaco il vero underdog di questa Champions League? No, guarda, tante cose mi trovate in macchina che sto proprio andando da Monaco a Torino perché vado a vedere la partita questa sera e diciamo che la sensazione che io ho è positiva, nel senso che io credo che la Juve in questi anni sia cresciuta molto come società e come rosa, e quindi gli sforzi che sono stati fatti stanno portando secondo me grandi miglioramenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'espressione, e quindi io credo che la Juventus mai come oggi possa essere un club che dare a vincere questa Champions League, quindi oggi secondo me il confronto si giocherà molto più alla pari che in altre edizioni, quindi io la sensazione ce l'ho positiva. L'importante è che oggi escano con un risultato che non sia troppo esatto, perché la che non sia troppo, andata, troppo strano, facciamo tutti così dicono, esatto, tutti dicono ma la partita di ritorno, compagnia, io dico invece che se uno si gioca la partita di andata come si deve, la squadra ha talmente tanta esperienza che può gestire benissimo la gara di ritorno. Quindi è del Monaco che mi dici? Il Monaco è la squadra del cuore adesso. Sì, ho capito, ma può essere un underdog di questa Champions League? Sì, perché hanno dei giocatori straordinari, anche se molto giovani, che però nonostante la loro giovane età iniziano già ad avere esperienze importanti. Quindi ti dico, giocano un gran calcio, quindi quando tu giochi molto bene a pallone tutto può essere possibile, e l'avversario tutto sommato con la quale sono caduti è quello forse più abbordabile. Sì. Ma chi vince la Ligue 1 secondo te? Ma guarda, tutte le sensazioni sono molto positive, ti dico, in città c'è moltissimo entusiasmo, eccetera. Adesso chiaro, c'è un vantaggio che è minimo, perché basta una partita sbagliata e ti ritroveresti già a pari punti, però ti dico, la sensazione è positiva, la squadra ci crede molto, quindi da questo punto di vista io ho anche lì delle buone sensazioni. Ma Emery viene alla Roma? Ecco, e poi Emery viene alla Roma e poi io aggiungo... Quanto dipende? Chi prenderà il posto di Emery dopo che verrà cacciato a pedate dal Paris Saint Germain? Se il Paris Saint Germain vince il campionato, secondo te rimane Emery oppure cambiano comunque? Guarda, io so che c'era stata un'amarezza incredibile dopo, proprio a livello di nervi tesissimi, dopodiché chiaro, con i giorni che passano e eventualmente una vittoria del campionato potrebbe secondo me comunque dare la chance di continuare in questo progetto. Chiaro che la sconfitta così per i progetti anche di far crescere il club a livello di immagine è sicuramente stata una cosa pesante. E dopo, se vincono, secondo me non cambiano. Se non vincono, io credo che purtroppo chiaramente fuori in questo modo la Champions League e non vincere un campionato che comunque i suoi predecessori hanno vinto a man basse, effettivamente secondo me farebbero diventare Senti, una vita dura. Un'ultima cosa, scambio alla pari di allenatori Roma Paris Saint Germain. Ah, io questo Paris Saint Germain lo farei. Io sono un estimatore di Mister Spalletti da sempre e incredibilmente un suo estimatore. Qui italiani, allenatori italiani che abbiamo la fortuna di avere, quindi io da Roma me lo terrei strettissimo Spalletti, però dopo non so tutte le dinamiche che ci sono dietro, ma insomma questo è il mio pensiero. Hai capito, Bardo? Grazie. Beh, Federico, grazie. Ciao. Grazie a voi, a presto. Abbiamo disegnato uno scenario. Beh, insomma, Emery alla Roma è un'idea molto forte, perché chiaramente con Monchi c'è un rapporto di un certo tipo, ma io guarda ti dico, secondo me è un po' il discorso che facciamo prima su se certe emozioni valeva la pena viverlo oppure no. Qui di fronte, insomma, è stato un boomerang quel 6-1 per il Paris Saint Germain. Forse sarebbe stato più... Guarda, io ti dico che secondo me la sorte di Emery è stata segnata da quel 6-1 che vinco che non capisci, vinco lo scudetto. Forse era meglio, veramente, è l'eccezione che conferma la regola, forse era veramente uno di quei casi in cui era meglio fare 0-0 in casa, perdere 1-0 a Barcellona. No, sì, assolutamente. E la chiudevi lì, perché veramente è stata una delusione enorme, una partita nella quale sicuramente Emery ha commesso degli errori e il Paris Saint-Germain ha dimostrato una inadeguatezza enorme e per certi versi veramente impronosticabile alla gestione del rischio, alla gestione dell'adrenalina, perché veramente si è fatto schiacciare mentalmente. Guarda Pier, io credo che il destino di Emery sia stato segnato da quel 6-1, lo credo quanto te, e poi vediamo, ho l'impressione che perderà anche la Ligue 1. Allora, dopo il traffico, ti racconto quale sarà lo scenario per la gara di ritorno con te telecronista e gli ascoltatori che mettono ogni genere di cose intorno alla TV. Dopo ti spiego come. Tutti convocati. Tutti convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Tutti convocati. Allora vi dico subito che dopo il GR avremo Marino Bartoletti in Parole Musica, avremo le ultime sul closing, che c'è De Luca che mi fa dei segni pazzeschi, i cinesi sono arrivati, ricordalo, ricordiamo le ultime, sono sbarcati i cinesi, stasera vanno alcuni di loro, vogliono essere portati a Torino a vedere la partita. Allora Pierluigi Pardo, io mi immagino questo scenario leggendo i WhatsApp, gara di ritorno che tu commenterai per Mediaset, e io immagino le televisioni degli italiani con la voce di Pardo circondate da mille cose, comprese le foto di Rizzoli, Tagliavento, Rocchi e una vecchia foto di Ceccherini. Ormai è scoppiata questa mania. Mettono intorno alla televisione, c'è cioè chi mamma ebe, chi l'arbitro Rocchi, chi addirittura una vecchia foto di Ceccherini. Era meraviglioso. Hanno una fantasia i nostri ascoltatori, inarrivabile. Sergio da Monza, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Cosa metti sopra la televisione stasera? Meglio che non ve lo dica. No, adesso voglio sapere. No, niente di particolare. No, volevo fare un intervento un po' contro rispetto a quello che è stato detto, ovvero è più volte uscito da voi e dai vostri opinionisti che il modo migliore può essere quello di lasciar giocare il Barça per poi aggredirlo, poi, come dire, in determinate situazioni. Io questo quello che faccio per ignorare. Sentiamo male, comunque abbiamo capito aggredire il Barça solo in determinate situazioni, non partire con un'aggressione immediata. Non so se sia questa l'idea di Allegri, lo scopriremo. Io non ne ho idea, sinceramente non ne ho idea. Tu Pierluigi? No, io penso sì, penso che ci saranno dei blitz, penso che la Juve giocherà molto coperta, molto attenta e proverà però a fare dei blitz. Io credo che ci siano dei punti oggettivi non straordinari nella difesa del Barcellona, appunto i centrali di difesa per esempio, insomma lì il classico taglio Higuain potrebbe andare molto bene, potrebbe essere molto utile, insomma però poi la partita ha mille variabili, mille scenari, ovviamente c'è il peso della partita di ritorno, sappiamo benissimo che in casa è importante soprattutto non subire gol, quindi insomma ci sono mille variabili, mille dinamiche, difficilmente verrà fuori una partita come Paris Saint-Germain in Barcellona. Io penso che la Juve giocherà accorta, ma proverà a vincere la partita. Adelante perché, con giudizio. Perché come si diceva prima, poi se arrivi, come diceva Pastorello, se arrivi alla partita di ritorno, insomma, secondo me hai una forza mentale molto superiore rispetto al Paris Saint-Germain, quindi puoi pensare di gestire in una partita di ritorno se hai un risultato buono. Allora, sovraschermo di Alberto mi ha mandato una foto per la televisione di questa sera, il famoso striscione della curva interista con i tre bassotti, ormai noto. Ormai siamo ai sovraschermi, siamo alle televisioni con sugli amuleti. Fabio, Giovanni da Ragusa, invece lei con cosa contorna la televisione questa sera? Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, dica. Wembley, 22 maggio 1963. Oddio. Milan, Ghezzi, Davide Trebbi, Benitez, Maldini, Trapattoni, Pivatelli, Sani, Altafini, Rivera e Mora. È il primo trionfo dei sette del Milan. Quindi fra 50 anni la Juventus non riuscirà a raggiungere il Milan in fatto di trionfi in Coppa dei Campioni. Si rassegna anche lei, Genta. Innamorato della Juve, lo sappiamo, lei è innamoratissimo della vecchia signora. Non dica fregnacci che non è vero che è juventino. Sono allora, fregnacce. Cioè lei dice che sono fregnacce e che io non sia juventino? Sì. Ah. Vuole che le mando il numero di qualche mio amico? In privato? No, se vuole glielo mando. Così tutti scoprono l'arcano. Ormai, io sono un feticista del calcio. Sono diventato un feticista del calcio. No, da bambino non tifavo Juventus. Adesso non tifo. Sono un feticista del calcio. Guardo ai giocatori. Mi piacciono, Pierluigi, mi piacciono i piedi. Cosa devo fare? Beh, mi piacciono i piedi. Posso parlare anche un'altra cosa. No, però insomma sicuramente no, vale in tutti e due i sensi. Ma Ragusa Ibla, questa è la vera domanda, Ragusa Ibla, Giovanni? Sì, sì. Infatti, a Ragusa Ibla c'è il Milan Club Nicolò Carosio che è una delle principali attrazioni, però devo dire che poi anche il resto di Ragusa Ibla è bello, devo dire, è un posto magnifico, veramente magnifico. E beh, di voi che stava Ragusa Ibla. Grazie, Cologno. Non è male anche Cologno, lavora, c'è tante cose belle. Mi viene voglia di dire ma vada via i chap, ma non te lo dico. Grazie Giovanni da Ragusa, le mando il numero di qualche mio amico e confermo che io sono un feticista dei piedi, come quelli di Neymar, ma non solo. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao. Ne abbiamo da raccontarci. 800 24 00 24, dopo il GR Marino Bartoletti in Parole Musica e le ultimissime sulla telenovela, il closing del Milan, che speriamo finisca bene. Allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti e andiamo. Convocati. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta, con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi han messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente... Fanno segno di stringere, ma che volete? Marino Bartoletti, buongiorno. Così non vale, è troppo facile. Lo so, ma infatti per ragioni tecniche non siamo riusciti, per ragioni tecniche non siamo riusciti a seguire la scaletta musicale che tu ci hai donato. Siamo andati su... Mi era assolutamente indegna, guarda. Siamo andati su un grande classico, un grande Lucci. Avanti Andrea, che bel divertimento. Che non era male, che non era affatto male, Avanti Andrea, che bel divertimento. Avanti Andrea come fa l'Inter, Avanti Andrea che bel divertimento, Avanti Andrea come ha fatto il Milan e come credo farà per anni, perché questi... Non lo so, ma lasciamela dire cattiva. Questi cinesi che sono arrivati a Milano, sono sbarcati a Milano ufficialmente, mi sembrano falsi come i bigliettoni da 300 euro. Comunque, come si dice prendere per il culo in cinese? Devo informarmi, non ho ancora studiato, Marino. Lucio San Siro è doppiamente crudele, perché Lucio San Siro, come sicuramente saprei, è stata scritta nel 71 da quel poeta, sì, della musica e della vita, che è Roberto Vecchioni. È... forse qualcuno ricorda che vinse lo scudetto quello. Sì. Ricordo. Erano le c'è ultime chi... derive della grande Inter, c'è ancora chi... quasi tutti. C'è chi mi accusa di essere juventino, chi... Io ho sentito. Hai sentito? Io chi mi chiede per chi... Io sono... Dico io... sempre che io... non si chiede l'età a una bella donna. È inutile chiedere per chi tifa un giornalista sportivo, cioè o lo dichiara e a volte o lo dichiara, ma io dichiaro il mio feticismo, lo dichiaro pubblicamente, il mio feticismo inteso in tutti i sensi che volete, declinato in tutti i sensi che volete. C'è chi mi scrive che sono così juventino che da piccolo andavo a San Siro a vedere Van Basten, è verissimo, andavo anche in tutti gli stadi del nord Italia a vedere Maradona. Cosa volete che vi dica? Ormai mi eccitano neanche le grandi squadre, i grandi giocatori. Potrei dire una cosa impopolare, ma io sono così italiano che stasera sarei molto felice se la Juventus facesse un particone avanti nella Champions, nell'interesse del calcio italiano. Poi insultate, dite, fate, non me ne frega. Lettera a testamento, dire baciare, lettera a testamento, baciare, poi vediamo cosa. Ma comunque io sono così allegriano invece, sono così allegriano che... L'ho ripetuto mille volte, io sogno Allegri che alza la coppa dalle grandi orecchie e poi magari dice addio alla signora, sarebbe divertente anche quello. Ma torniamo alla tristezza di un derby che non avrà le luci accese, avrà un bel sole credo sopra San Siro alle 12:30, è un derby che vale il sesto posto e non è la prima volta, pensa come siamo ridotti da queste parti. È un derby che vale un briciolo di dignità, guarda, hanno un piccolo alibi Inter e Milan, che quando il maestro Vecchioni scrisse Lucio San Siro pensava all'ippodromo e non allo stadio di calcio, per la verità, perché era l'ippodromo che si consumò in qualche modo la vita scellerata e meravigliosa di suo padre e la sua grande passione per il calcio. Ricordiamo che Vecchioni è interista comunque, ma non per questo. Non è in grado di scrivere delle poesie applicate alla musica. Certo, un derby per il sesto posto non è la prima volta, per la verità, che succede, perché comunque hanno avuto anni bui, casomai non contemporaneamente, le due squadre. A me piace vedere che comunque in fondo al tunnel dell'una e dell'altra sia qualche piccolo guizzo di luce. L'Inter non è tutto da buttare via. Certamente sarebbe bello se ogni tanto anche i dirigenti, oltre che accusare i calciatori, si guardassero allo specchio. Il Milan ha buone basi, anche anagrafiche, su cui ricominciare. Guarda, per l'Inter mi viene in mente quello che mi diceva il mio parroco, sai, di quei vecchi parroci che avevano la veste lunga, con 200 bottoni, che quando si sbagliava a allacciare il primo bottone, poi si sbagliavano tutti gli altri. Ecco, forse è il caso che l'Inter si rimetta la veste da prete, metaforicamente parlando, e riallacci il primo bottone al punto giusto e poi chiuda tutti gli altri. Chi deve allacciare quel primo bottone? Pioli o qualcun altro? Credo qualcuno sopra Pioli. Guarda, io sono stato felice della scelta di Pioli, perché in quel famoso casting, per usare una delle parole più orribili che sono venute di moda nel mondo del calcio ultimamente, non si poteva che scegliere lui. Anche lui in questo momento sta un pochino soffrendo lo sbandamento della società, che lusingare o non lusingare, a proposito di neologismi. Ci sono delle grandi potenzialità. Mi piacerebbe pensare che in una società l'allenatore potesse scegliere i giocatori con cui andare in campo, oppure, come nel caso di Allegri, condividere in qualche modo le scelte che qualcuno che se ne intende sa fare. Sì, perché sai che a Torino non è che prendono quelli che dettano le regole del mercato. Un'ultima cosa, da puro italiano dietrologo, quel sesto posto per una squadra che vuol vincere lo scudetto, che vuole sfidare la Juventus, come potrebbe essere più l'Inter del Milan, potrebbe essere un gradino molto scivoloso. Insomma, io non vorrei giocarmi, partire con la preparazione a luglio e giocarmi in preliminari di Europa League. Sì, è una cosa abbastanza malinconica, devo dire. Né lenisce la mia malinconia il fatto che poi andremo in Coppa dei Campioni per dogma divino in 4 fra 2 anni, perché le cose regalate a me assolutamente non piacciono. Certamente, guarda, la dico grossa, se un bel giorno il Dio ha deciso che ci voleva il diluvio universale, ha mandato Noè sull'arca, forse anche a Milano, se bisogna, non dico di un diluvio universale, però di un bel riazzeramento, guardando in faccia con un po' di sincerità i rispettivi propri tifosi, perché si vive ancora Bravo. Di speranze non perfettamente concrete, si pensano delle cose che possono soltanto illudere, tanto varrebbe tirare una riga e guardare con realismo a un futuro concreto. Possiamo cosa che ancora dire. Purtroppo nell'equivoco meraviglioso dell'obbligo di dover vincere, Inter e Milan negli ultimi anni non hanno saputo fare. No, possiamo dire in francese e in coro che i tifosi di Milan e Inter sono stati presi per il culo fin troppo negli ultimi anni. E adesso anche in cinese. E adesso anche in cinese. Andremo tutti in via Paolo Sarpi a fare qualche ripasso. Ti faccio sentire un'altra cosa. Ovviamente questo capolavoro degli U2 non si riferisce ad eventi tragici, ma si riferisce ad un colore che è quello del sangue, che è quello della passione, che è quello della macchina più amata dagli italiani. Beh, è uno dei tre colori dello sport italiano. Lo sport italiano ha l'azzurro delle nazionali, ha il rosso sangue della Ferrari e anche della Ducati, che non è stata fortunata nell'ultimo weekend, e ha il rosa del Giro d'Italia. Sono tre colori bellissimi ai quali siamo tutti ugualmente affezionati, naturalmente. Beh, certo. Sì, insomma, vuoi farmi dire che ci sta ritornando il prurito della speranza? Sì, voglio farti dire questo. Ci sta tornando il prurito della speranza, tanto più che negli ultimi 2 anni ci eravamo un pochino illusi e purtroppo avevamo capito che c'era qualcuno molto più forte di noi. Guarda com'è bello dire noi, parlare al plurale senza che nessuno ci rompa i maroni. Ecco, adesso mi veniva proprio la parola, insomma. Perché sai, quando parli di calcio scivoli sempre su qualcosa, perché c'è sempre Napalm in agguato, no? Per esatto. Dire le sue cose. Quando parli di Ferrari speriamo che almeno si mettano d'accordo tutti. Guarda, io sono così vecchio da ricordare il mio primo Gran Premio a Monza, quando giovanissimo il giorno mi ci mandò assieme al grande Francolini e vidi la bisarca delle Ferrari che veniva scaricata dietro a quelli che ancora non si chiamava paddock, con la gente che applaudiva le macchine mentre venivano scaricate. Quello è un ricordo che mi è rimasto indelebile, e quell'applauso si protrae nel tempo. Questo è il settantennale, quest'anno il settantennale della Ferrari. Insomma, trovatemi un italiano che non tifi Ferrari. Anzi, a volte c'è stata una distorsione tale per cui si sono fischiati dei piloti italiani che osavano battere la Ferrari. Ricordo Patrese a Imola con molta tristezza, sì, perché la Ferrari è amata più di tutto. Io ancora non sono sicuro che siamo al livello delle frecce d'argento, sinceramente. Le prime due gare dicono così. Sai, Carlo, meno male che non ci ascolta Turrini, a cui voglio un bene dell'anima, mi piacerebbe sapere che la Ferrari ha due piloti e non uno. Ci picchiamo. No, su questo guarda, se ti Turrini ti ha di sicuro sentito e tra poco chiama. Io già me lo sento perché l'ho sentito stamattina al telefono e mi ha detto: voglio lanciare pubblicamente la campagna Kimi Raikkonen for 2018. Quindi già te lo dico. Però insomma, le prime due gare, Australia va bene, circuito strano, aspettavamo la Cina, eccetera eccetera. Quello che più rincuora tutti i ferraristi do mundo sono i fogli dei tempi, cioè in questo momento la Ferrari al passo gara della Mercedes, poi il resto lo scopriremo vivendo, a cominciare dal giorno di Pasqua. Però red come rosso, se aggiungiamo una S dice, diventa Reds. Valentino Rossi, Briatore l'altro giorno ci ha detto: fossi in lui, se non ce la faccio quest'anno pianterei lì. Sei d'accordo con Briatore? No, non sono d'accordo con lui, perché io non riesco a immaginare la MotoGP senza Valentino. Sì, Marino, non ce la facciamo. Lo so che voglio bene a Valentino. Io neanche. Ma un giorno anche perché devo dire che questo discorso l'abbiamo già fatto 4 anni fa, sì. 3 anni fa, 2 anni fa. E Valentino è stato un grande protagonista degli ultimi 2 mondiali, forse probabilmente li ha addirittura buttati via, almeno uno lo ha buttato via, quindi sì, è vero che si trova questo cagnaccio in casa che sicuramente a questo punto diventa il grande favorito, però quant'è cagnaccio ancora lui, porca miseria, quanto bravo ancora lui. Ci picchia, abbiamo alzato una Coppa del Mondo con un signore che aveva 40 anni, una trentacinquina d'anni fa, perché non sperare in questo sogno? Lo sport è fatto anche di sogni e anche di desideri irrazionali, eh. Sì, ultimo brano che vi faccio ascoltare insieme a Marino Bartoletti. Siamo ai Beatles quando erano già entrati nel loro periodo lisergico. Marino, che dolore, perché immagina cosa ti riferisci. A uno dei colori che hai citato sopra, cioè il rosa. Con Fabio Aru che dice: ragazzi, sto ginocchio io non lo piego, al Giro d'Italia che parte dalla mia Sardegna non ci sarò. È una cosa dolorosissima, guarda, devono tramontare tutte le metafore sui Fratelli d'Italia, su Nibali e Aru, sulle due isole che sono state scelte per omaggiare quelli che sono i due più grandi ciclisti. Pensa, alla Sardegna la si faceva certamente per onorare i 100 anni del Giro, ma anche in omaggio ad Aru che passava vicino a casa sua. La Sicilia la si fa perché si arriva nella Messina di Nibali. L'idea di questi ragazzi, i rivali fino all'altro giorno, che potevano alimentare e fertilizzare una fantasia che forse l'Italia non ricorda dai tempi di Coppi di Bartali, che corsero assieme come i compagni di squadra il Giro d'Italia del 1940, e in quello successivo c'era la guerra di mezzo, per la verità nel 1946 si trovarono rivali. Lo sport ha bisogno di essere alimentato da queste fantasie, al di là del dolore personale che provo per Aru, perché è un ragazzo meraviglioso, veramente meraviglioso, e il Giro d'Italia che perde veramente tanto, sai, non arrivo a dire che, come ho detto prima, che non riesco a immaginare la MotoGP senza Valentino, non posso immaginare il Giro d'Italia senza Aru, però viene a mancare qualcosa di così speziante, di così importante, di così fertile, di così stimolante, che quasi quasi faccio ricorso al mio romanticismo e dico: beh, guarda, mi piacerebbe che, non so come, aspetta che spengo un disturbatore, non so come un miracolo volesse che ce la facesse, anche se credo che sia piuttosto difficile. Ci vuole proprio il miracolo. Spegne la luce sulla Sardegna, veramente. Un altro hello goodbye è per Tom Bonen. Credo che tutti gli appassionati di ciclismo facessero il tifo per questa meravigliosa faccia da sberle di Tom Bonen domenica scorsa, in quella corsa monumento che a me piace da impazzire, come tutte le cose anacronistiche, che è la Parigi-Roubaix. E invece niente a Tom Bonen, a Cipicchia, come dico io. Beh, un grande che lascia il ciclismo, l'avrebbe potuto lasciare veramente come i grandi tenori con l'ultimo do di petto. Guarda, mi dispiace che non ci sia il mio amico Piero Augusto Stagi, perché si potrebbe aprire un dibattito. Tombonen è stato un grande, ma non un grandissimo, nel senso che avrebbe potuto fare anche di più. È vero, ha vinto tutte le sue grandi classiche, tutte, comprese le tre classiche del pavé, ne ha vinta più di una. Ha vinto un mondiale, forse ne poteva vincere più di uno. Anche qualche piccola ombra nella sua carriera, per la verità, sì. Continuo a stimarlo, lo hanno usato all'unico Giro d'Italia, che è venuto 2-3 anni fa e mi è piaciuto dal punto di vista umano. Vado controcorrente, anche se questo è il momento della celebrazione. Ricordo con antipatia quando vinse una Parigi-Roubaix su Filippo Pozzato, che venne preso a sputi dai suoi tifosi, Tombonen. Non c'entrerà niente Tombonen, ma è una cosa che mi è rimasta impressa e per cui ci resta ancora male. Comunque, onore a un grande corridore che se ne va, e che sarebbe stato bello se avesse alzato la pietra della Roubaix nel suo ultimo arrivo. Grazie Marino, come sempre. Ciao. Ciao Marino Bartoletti. Allora, io vado diretto da Marco Berinazzo prima di tornare in Sicilia da Daniele della provincia di Ragusa, perché i cinesi sono arrivati a Milano. Allora, Marco Berinazzo dal Sole 24 Ore, ciao, siamo alla fine, dimmi che siamo alla fine, ti prego, ti scongiuro. Lo speriamo tutti, non ne possiamo più. No, siamo oltre il non ne possiamo più, siamo ben oltre il non più. Però diciamo che siamo nelle ore decisive, perché venerdì i circuiti finanziari sono chiusi, per cui i soldi dovranno arrivare tra domani e giovedì, molto probabilmente giovedì. Si attende appunto i bonifici diciamo, che dovranno completare il pagamento, dopodiché si annuncia una grande festa ad Arcore con cena per siglare il passaggio di proprietà. Tutto verrà poi formalizzato venerdì 14 nell'assemblea che definirà anche i nuovi componenti del consiglio di amministrazione, quindi la struttura della nuova società. Allora, la situazione dei soldi, correggimi se sbaglio, in questo momento è così: 190 milioni che erano bloccati in Cina sono arrivati nella nuova scatola cinese, è il caso di dirlo, che si trova in Lussemburgo e che si chiama Rossoneri Sport. 180 milioni sono attesi da Iliot, giusto? Sì, esattamente, e credo che poi ci siano ancora... La colletta è finita. Altri soldi che metterà il fondo americano in prestito per coprire, diciamo, le spese dell'ultimo anno, 70-80 milioni, 40-50 milioni poi per garantire i prossimi, diciamo, la continuità aziendale nei prossimi mesi, il tutto poi in vista di un calciomercato che dovrà garantire con salto di qualità al club nel più breve tempo possibile, perché Li Yo-Yong con questi soldi dovrà restituirli a Elliott, se non vorrà poi invece che il club passerà poi nelle mani del fondo americano. Insomma, i tempi sono brevi, gli interessi abbiamo visto sono molto alti, quello che chiede Elliott, e dunque bisognerà mettere subito il club in carreggiata per garantire un ritorno economico che consenta a Li Yo-Yong, magari poi anche trovando altri soci cinesi lungo la strada, di pagare questo debito con il fondo americano. Sì, diciamo che ci avviamo alla fine della telenovela, ma se ne aprirà subito un'altra, che seguiremo ovviamente con attenzione con l'aiuto di Marco Berinazzo. Grazie Marco, a presto. Grazie. Io voglio chiudere con Daniele dalla provincia di Ragusa, solo per chiedergli cosa mette vicino alla televisione stasera. Buonasera, sono Daniele, appunto, da Vittoria. Che cosa metto vicino alla televisione? Solo il mio cuore, essendo un tifosissimo juventino. Un romanticone. Sì. Va bene. Volevo fare un appello a tutti i tifosi delle altre squadre di unirsi per una volta e tifare tutti insieme. Ma quando mai, Daniele? Ma se ci sono già gli interisti con le bandiere blaugrana fuori dal balcone, non... Ma è bello così, è bello così, perché l'Italia è fatta così. Guelfi, Ghibellini. Ragazzi, finiamo qui, vi aspetto domani al Salone del Risparmio di Milano. Se siete in zona, veniteci a trovare, ci facciamo un saluto di persona dalle 14 alle 15.30, da lì trasmetteremo Tutti Convocati e vivremo insieme il giorno dopo Juventus Barcellona. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo D'Avezzano in redazione, ciao a tutti. Allora questa è la cosa, no? Che almeno una risata se la siamo fatta. Signori, alla prossima!